Resto Radio Convento, per raccontarsi, per raccontare. Ed eccoci qua, in questo sabato sera, sono Mr. Dave, ciao ragazzi, ciao a tutti che ci state ascoltando sulle interconnessioni web di Resto Radio Convento, e ho l'onore di presentarvi, qua con me c'è Martina, in arte DJ Martin. C'è il nostro DJ di questa sera, DJ Martin, sì. Una Lady DJ, come si potrebbe dire? Lady DJ, quindi ho detto bene, certo. Cioè, sono tempato, però sono un sì, va benissimo. E cosa ci farai ascoltare questa sera? Ma questa sera vi propongo un po' di pezzi conosciuti, un po' anni 90, però tutte chicche sorprese, non dico adesso i titoli, ma anni 90, perché scusate, ma Martina potrebbe essere mia figlia, perché sì, esatto. Anni 90 probabilmente non sei nata negli anni 90. No, sono nata nel 2001 io. Ragazzi, e quindi come fai a dire e come fai a dirci anni 90? Dove li hai imparati? Li ho imparati da mio padre negli anni 90. Perché sei figlia d'arte? Sì, anche mio padre era un DJ, però lui suonava a casa e mi ha trasmesso la passione. Che bello, bello, bellissimo. E intanto ci siamo distratti perché abbiamo visto DJ Alex Angioletti, sì. Era in, come dire, era in missione a Sanremo e quindi poi ci racconterà qualcosa. E quindi questa sera fai questo? Sì. E cosa? Puoi anticiparci qualche titolo, qualche pezzo? No, tutte sorprese. Anche perché si vive al momento. Esatto. Quello che ti dà la gente, tu, quello che ricevi, trasmetti. Certo. Quindi l'energia, ma noi siamo positivi perché è bellissimo. È stato un piacere, un onore, proprio un'intervista flash, ma per... presentazione? Ma nemmeno, più che altro perché vorremmo dare un messaggio alla gente giusta, ai giovani, perché Martina, DJ Martin, noi l'abbiamo bastardamente soprannominata DJ Aston Martin. Aston Martin? Ti piace però? Mi piace, a stile. Quindi non ci dici nulla, proprio così? No, tutte sorprese. E a chi deve venire qua, i tuoi coetanei magari, cosa diciamo? Ai miei coetanei cosa devo dire? Dalle canzoni, dici? No, lo so, cioè per dire venite che ci sono io che sono. Ah, certo, a tutti i miei coetanei, a quelli over, diciamo, a quelli over, che comunque qua si ritorna... Io sono over tu o sei... over? Tu sei a metà. Cioè range rover. Sì, sì. Range rover, sì. Dai, che qua si ritorna tutti i giovani. È vero. Qui si ritorna tutti i giovani, perché la nostra è una missione. Ciao ragazzi. Ciao a tutti, buon proseguimento sulle interconnessioni web di Risto Radio Convento. Ciao!